si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati con Si Può Fare. Staremo insieme sino alle 10. I nostri contatti per interagire con noi subito, da subito, in tempo reale: l'account Twitter del programma è @ Si Può Fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Siamo anche su Facebook, Si Può Fare _ Radio 24. Oggi parleremo, dopo aver dato un'occhiata ai giornali, di un modo alternativo di investire il TFR. Sì, se ne parla molto: tenerlo in azienda o metterlo in busta paga, come dice Matteo Renzi, come propone il Premier. Ebbene, c'è un modo alternativo, come hanno fatto al birrificio Messina in Sicilia. Hanno investito il proprio TFR per rilevare l'azienda che stava chiudendo, e meno male che avevano questo gruzzoletto, perché una ventina di dipendenti hanno aperto una cooperativa e adesso hanno scongiurato la chiusura, e di questo parleremo, ma non è un caso isolato in Italia. Poi insomma, parleremo anche d'altro. Per esempio, andremo a scovare un caso di Islam moderato. Si dice che non c'è, e invece c'è stata una manifestazione a Parigi, c'è stata una manifestazione a Milano, e si leva anche la voce di alcuni imam in Italia che prendono le distanze dall'ISIS. Questa sì che è una buona notizia. Ma adesso andiamo ad iniziare. And now the good news. E come sempre cerchiamo una notizia per partire con il piede giusto. Questa volta la notizia viene dalla provincia di Como, Grandate. Artsana lascia la Cina per tornare a produrre il Made in Italy in Italia, proprio a Grandate, al porto di Como. Per lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi, Artsana, colosso comasco da 1,2 miliardi di euro, che controlla Chicco, Prenatal e altre marche di prodotti per bambini, sceglie la qualità del Made in Italy e è pronta a riportare in patria le produzioni che erano state spostate in Oriente. Cioè, si va al contrario: invece di andare a produrre in Cina perché è più conveniente, cosa che è successa e succederà sicuramente ancora, c'è chi decide di scommettere proprio sulla qualità del Made in Italy, come Artsana, e riporta in Italia alcune produzioni. L'annuncio era stato fatto durante l'estate. Insomma, l'amministratore delegato del Conto ha confermato questa iniziativa. Ebbene, quindi all'Artsana sono pronti a investire negli stabilimenti italiani e ad aprire anche una nuova casa a Brescia. Vai! Ma adesso cominciamo a dare un'occhiata ai giornali in edicola oggi. Cominciamo con il Messaggero, perché il Messaggero ha un'anticipazione di quello che potrebbe essere gli sviluppi sull'attività del governo nei prossimi giorni. Articolo 18: Renzi mette la fiducia. Il Premier convoca i sindacati per martedì, ma devono cambiare. Questo è l'annuncio che è stato fatto ieri al Festival Internazionale a Ferrara, tra qualche applauso e anche qualche contestazione a Renzi, che, dice il Messaggero, mette la fiducia sulla riforma del mercato del lavoro. Il voto mercoledì a Palazzo Madama. La decisione verrà ufficializzata dal Consiglio dei Ministri, che si terrà martedì dopo l'incontro con i sindacati. Il punto è questo, che scrive il Messaggero: Renzi è convinto che le modifiche dell'articolo 18 siano per Bruxelles e per i mercati la cartina di tornasole sulle quali misurare capacità e forza dell'attuale esecutivo. Consegnato lo scalpo a Bruxelles, Berlino, Francoforte, Renzi, e questo è il punto, diciamo, no? È pronto ad alzare il livello dello scontro contro i burocrati della Commissione Europea, che le hanno sbagliate tutte, arrivando a mettere in discussione anche il Fiscal Compact sin dal Consiglio Europeo di fine mese. Cioè, porto a casa l'articolo 18, vado in Europa a Bruxelles a sbattere i pugni sul tavolo dicendo: noi stiamo facendo le riforme, voi invece no. Già che ci siamo, dal Messaggero il secondo titolo principale è sul caso dell'Opera di Roma, licenziato il coro e l'orchestra perché non era più sostenibile economicamente. Il titolo è: la svolta dell'opera azzerata, stagione con più orchestre e il piano Fuertes. Il sovrintendente, vediamo, l'Opera di Roma riparte dopo l'azzeramento con contratti pluriennali e rinnovabili, possibilità di ospitare più orchestre, un organico simile al precedente, 180 tra strumentisti e coro, cui potranno far parte i musicisti della formazione appena licenziata, insieme a però anche a nuovi elementi, tutto nel segno della qualità. Questo questo il piano del sovrintendente Fuertes per la nuova opera di Roma, che già dal 1 gennaio diventerà operativo, cioè si passa al modello che c'è già in altre città, capitali europee, Parigi, Londra, Vienna, Madrid, dove spesso e volentieri le orchestre e i cori dei grandi teatri sono delle cooperative che lavorano per questi teatri, non sono più dei dipendenti pubblici, e lavorano per questi teatri e anche per altri teatri, con risparmi, un pochino più di concorrenza e meno di quei privilegi poi inconcepibili che erano emersi in questi giorni a proposito dell'orchestra di Roma. Corriere della Sera: così spendono male le nostre città, un'inchiesta magari vedremo più avanti nella seconda parte della rassegna stampa di Rizzo e Stella sul SOSE. Che cos'è il SOSE? Il SOSE è la società creata nel 2010, Soluzioni per il Sistema Economico, società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e della Banca d'Italia, che deve valutare sulla base del, diciamo, del nuovo federalismo i costi medi di tutte le prestazioni, di tutte le spese dei comuni italiani. Vengono fuori cose incredibili, ci sono comuni che spendono tantissimo più di altri, però bisogna stare attenti, dicono Rizzo e Stella, perché a volte spendere meno, come nel caso della Calabria, vuol dire non offrire alcun servizio ai cittadini. Mi sa che dobbiamo già fermarci qua. Reggo solo il titolo di Repubblica: Renzi attacca i sindacati, scontro con Bersani sul crollo degli iscritti al PD. Ci fermiamo, c'è la rassegna stampa europea, il giornale radio. Tra un bel po', dopo le 8:15, riprendiamo a dare un'occhiata ai giornali e poi con Si può fare. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, saremo insieme fino alle 10. Oggi, tra l'altro, è il compleanno di Radio 24, 15 anni, avete sentito l'editoriale del direttore Roberto Napoletano. Benissimo, noi giocheremo anche con voi ascoltatori più avanti, vi spiegherò come e perché. Intanto cominciate a prenotare il vostro intervento in diretta, 800 24 00 24. Visto che Radio 24 è la radio che segue l'attualità, i fatti, con speciali aggiornamenti di continuo, vi chiediamo qual è lo speciale di Radio 24 che vorreste vedere e ascoltare in onda prossimamente, al più presto. 800 24 00 24. Parleremo anche di come investire in modo alternativo il TFR, la proposta di Renzi. Oggi un sondaggio sul Sole 24 Ore dice che il 52% degli italiani sono favorevoli alla proposta di Matteo Renzi, però c'è un modo alternativo ed è quello che hanno fatto al birrificio Messina in Sicilia. Hanno investito il TFR per rilevare l'azienda, non è un caso isolato, dipendenti che di fronte alla crisi dell'azienda nella quale lavoravano si sono armati di buona volontà, hanno fatto una cooperativa, hanno investito i propri risparmi, TFR incluso, per rilanciare l'azienda. Riprendiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Oggi, da dove avevamo interrotto una mezz'oretta fa ormai, alle 7:30, dunque, titoli, Corriere, intanto la notizia, diciamo con fotonotizia, purtroppo, decapitato il volontario inglese che aiutava i musulmani, ancora un filmato dell'ISIS atroce, mostrerebbe la decapitazione dell'ostaggio inglese Alan Henning, 47 anni, volontario in una missione di aiuti umanitari, rapito in Siria lo scorso dicembre, è il quinto occidentale ucciso dagli estremisti islamici. Il 21 settembre la moglie aveva lanciato un appello per salvarlo. Noi, tra l'altro, più avanti sentiremo anche la voce di un rappresentante della comunità islamica in Italia, il presidente della Federazione Islamica Regionale del Veneto, uno di quelli che ha alzato la voce in queste ore, in questi giorni, per fortuna, per prendere le distanze dagli estremisti, dall'ISIS, da Boko Haram, da Al Qaeda. Insomma, si dice che l'Islam moderato non esiste e che il califfato sta prendendo la rappresentanza di tutto il mondo musulmano. Ebbene, invece noi intervisteremo una di queste persone che sta prendendo le distanze, fortunatamente, dall'ISIS. Se avete domande per il signor Tahin Bouchaib, presidente della Federazione Islamica Regionale in Veneto, potete chiamare al numero verde 800 24 00 24, gliele gireremo, oppure ci trovate su Twitter, l'account del programma chiocciola si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Poi riprendiamo l'inchiesta di Rizzo e Stella, sempre sul Corriere, relativa alle spese dei comuni, delle nostre città. Sono stati diffusi i dati del SOSE. Che cos'è il SOSE? È una società per azioni, soluzioni per il sistema economico, controllata dal Ministero dell'Economia e della Banca d'Italia, a cui è stato affidato, in seguito alla legge sul federalismo, l'incarico di mettere a punto i fabbisogni standard degli enti locali, cioè per ogni spesa, per ogni costo, dagli asili alla manutenzione dei giardini pubblici ai trasporti, quanto dovrebbe spendere un comune. Viene fuori di tutto, per esempio viene fuori che nonostante fosse proprietario di 59.000 immobili, il Comune di Roma nel 2010 per i locali occupati dalla Polizia Municipale spendeva 117 volte di più del Comune di Milano. Sono cose stranissime, sono sprechi spesso, anche volentieri, o sono situazioni virtuose. Ma Rizzo e Stella mettono in guardia, per esempio, Bologna figura in zona rossa, una spesa superiore del 4,7% allo standard, ma si tratta di una scelta precisa, scrivono i due corrieristi. Investe nell'istruzione 60 milioni di euro contro i 37 previsti dal SOSE. Giusto? Sbagliato? A Bologna dicono i risultati li vedremo nel tempo. Insomma, accadono cose di questo genere. Accade per esempio che nella Terra dei Fuochi, a Casal di Principe, il comune Casal di Principe sia uno dei più virtuosi sulla carta, perché spende poco. Già, però dicono Rizzo e Stella, per esempio, per raccogliere le tasse comunali mettevano impiegavano 167 euro contro i 113.000 euro richiesti, cioè una cifra irrisoria. Giustamente si domandano perché infastidire i compaesani chiedendo loro le tasse. Quindi Rizzo e Stella, una bella inchiesta sul Corriere, a dire sì, il titolo è così, spendono male le nostre città, però attenzione, perché a spendere meno a volte in realtà vuol dire rinunciare a offrire i servizi di base alle comunità. Sempre il Corriere, un sinodo sulla famiglia che cambia. Il segretario di Stato dice: il Papa vuole aprire le porte chiuse, divorziati e coppie di fatto tra i temi. Vedremo se addirittura il Papa andrà più avanti sul tema delle coppie di fatto di quello che non ha fatto fino ad ora lo Stato italiano. Sarebbe, non lo so, sarebbe incredibile, sarebbe anche divertente. Messaggero, articolo 18, Renzi mette la fiducia. Questa l'anticipazione, retroscena del Messaggero, che dice la decisione dovrebbe essere ufficializzata dopo il Consiglio dei Ministri di martedì, dopo l'incontro con i sindacati, però insomma Renzi è intenzionato a mettere la fiducia sull'articolo 18. Svolta dell'opera azzerata, stagione con più orchestre, anche questo è il titolo del Messaggero, relativo a, insomma, quello che è successo all'Orchestra di Roma. Lo sapete, i licenziamenti, il modello cooperativo. Adesso però il sovrintendente Fuortes dice che insomma la stagione è garantita. Dal 1 gennaio 2015 il nuovo piano sarà operativo, ci sarà un'orchestra privatistica che offrirà servizi a Roma e non solo. Altri titoli scorrendo, il Sole 24 Ore si occupa per esempio di questo: professionisti, in 6 anni perso il 15% del reddito, giovani, donne i più colpiti, la flessione in alcuni casi arriva al 15%. Poi un sondaggio su Plus 24, l'abbiamo anticipato, TFR in busta paga, il 52% degli italiani è d'accordo, è quello che risulta da un sondaggio commissionato da Plus 24, il Sole 24 Ore, IPR Marketing, questo sul Sole oggi in edicola. La Stampa ci fa preoccupare, perché titola: il governo cerca 3 miliardi, metà di questi tagli arriveranno da risparmi sulla sanità. E quindi questa non è una bella notizia, staremo a vedere. Il Fatto Quotidiano si occupa della guerra in procura, cosiddetta, così definita dai giornalisti, a Milano. L'allontanamento di Robledo ieri ad opera del procuratore capo Liberati, per combattere i corrotti silurano il pool di Milano. Quindi una visione critica di questa notizia. Dopo mesi di indagini sabotate, Expo e non solo, scrive il Fatto Quotidiano, nell'indifferenza del CSM, Bruti Liberati chiude i conti con l'aggiunto Robledo, accusandolo per la gestione di un sequestro da 170 milioni di euro. I colleghi, se passa questo metodo rischiamo tutti. Robledo avrebbe utilizzato in modo discrezionale 170 milioni di euro, ma non per sé, attenzione, non facciamo confusione, soldi sequestrati alle banche in una inchiesta, UBS, Deutsche Bank, JP Morgan, che Robledo avrebbe, invece di destinarle alla banca di credito cooperativo, messo altrove, anzi scusate, invece di metterle nel fondo unico giustizia, le avrebbe depositate presso la banca di credito cooperativo. Ma Robledo ha detto sì, però questa cosa ha fruttato interessi per 22 milioni di euro, quindi la mia è stata una scelta positiva, i soldi poi sono tornati naturalmente alle banche dopo il dissequestro. Ultima segnalazione, il giornale titola così: il comico anti-Berlusconi indagato per evasione fiscale, eroi di cartapesta, con le foto di Sabina Guzzanti e Luttazzi, Daniele Luttazzi, il comico che sferzava il malcostume berlusconiano, accusato del più italiano dei malcostumi, l'evasione fiscale. Daniele Luttazzi è sotto inchiesta per non aver pagato 140.000 euro di IRPEF in Spagna, cioè Messi indagato per 4 milioni di euro sottratti al fisco. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Voglio ancora il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ciao e auguri Radio 24. Tantissimi auguri, 15 anni, 15 io sono anni. Un po' l'ultimo arrivato, quindi sono comunque già da felice. 15 mesi. Esatto, sono felicissimo già comunque di essere invitato a una festa. Ci sarà una festa? Ci sarà una festa, a parte gli scherzi, sono quasi 15 mesi veramente che sei con noi. Sì, agosto. Era agosto. Siamo lì, vicino. Siamo lì, diciamo. 15 anni, sono insomma. Il nipotino di Radio 24. Il nipotino. Auguri Radio 24, anche l'hashtag su Twitter, potete scriverceli in qualunque modo, in qualunque forma voi vogliate. E oggi noi vogliamo giocare. E non si vince anche delle cose a chi chiama e chi viene messo in onda? Non bisognava dire questa cosa qui? Diciamolo. Allora, oggi 800 24 00 24, tutti gli ascoltatori che chiamano e vanno in onda vincono la maglietta di Radio 24. E quindi che serve per celebrare questo compleanno. A un certo punto probabilmente mi assenterò per chiamare dal bagno, ovviamente, per cercare di vincere anch'io la maglietta di Radio 24, ma la quale tengo dire moltissimo. A tua mamma di chiamare per una volta, così la ma sentiamo. Ma se mia mamma la vince, se la tiene, quindi. Ah, sì, è tirchietta la mamma? Sì. No, non è gelosa, è gelosa. Ci tiene la maglia di Radio 24. Ah, va bene, questo sì. Allora, noi vi proponiamo di giocare come sempre ogni sabato. Oggi vi proponiamo questo: qual è lo speciale del fatto che deve ancora accadere che vorreste sentire su Radio 24? Cioè, ne abbiamo raccontate tante, spesso sono anche purtroppo delle sfighe, perché è stata di guerra. sì, purtroppo. Le notizie, anche cose belle, i mondiali di calcio. Ci sono, ma proprio noi invece ci occupiamo anche invece di buone notizie, o meglio di buone soluzioni a brutte notizie. No. Ecco. Per esempio, non lo so, potreste sentire aver voglia di sentire in radio lo speciale della firma dell'accordo di pace tra Israele e Palestina. Perché è questo che infatti va detto. Noi stiamo cercando notizie, diciamo, sì, che non che esistono, devono accadere, che devono accadere, che voi vorreste che speriamo, sentire da Radio 24. Tipo, non so, uno può sognare che finalmente hanno ammesso il 3-7 fra le discipline olimpiche, giusto? Sì. Questo sarebbe una bellissima notizia. Oppure dico io una cosa che dovresti dire tu: la diretta del primo matrimonio gay in Italia. Cioè, bello. Quando ci sarà il primo matrimonio gay in Italia, se noi di Radio 24 dovremo farlo in diretta. Io faccio l'inviato, voglio ben sperare. Per esempio. O anche semplicemente è scoppiata la pace, sarebbe un bello speciale. È finita la crisi economica. 800 24 00 24. L'idea più bella vince anche oggi biglietti per la mostra di Chagall. Oltre. Benissimo. Altro da dire? Altro da dire? Volevo dire una cosa su, visto sì, che abbiamo parlato di droni settimana scorsa, fra i lavori nuovi lavori di cui parleremo anche nelle prossime puntate, mi è piaciuto molto che c'è stato un video che è stato postato su internet da Il Post, dove si vede il vulcano Bardarbunga, che è questo enorme vulcano. Oddio. Sul più vasto ghiacciaio islandese, che è stato ripreso da un drone, e secondo me è un bel esempio, visto che ne abbiamo parlato, sì, esattamente settimana scorsa, è un bel esempio esempio di un tipo di riprese che un drone può fare, un essere umano no, perché sono delle riprese incredibili, perché ci si avvicina a una massa bollente dove nessun operatore ci andrebbe, giustamente. I droni, Massimo Temporelli, lo ritroviamo domani con i lavori del futuro. Esatto. Io invece voglio dire una parola, perché in rassegna stampa abbiamo letto, insomma, di quello che è successo all'Opera di Roma, il licenziamento dell'orchestra e del coro. C'erano, sì, sicuramente dei privilegi assurdi. Pensa che avevano l'indennità sinfonica, cioè se suonano l'opera sono pagati normalmente, se suonano una sinfonia, magari anche più corta, le opere sono molto lunghe, però è una sinfonia, quindi qualcosa che esula dal loro repertorio, venivano pagati il doppio. Ah, e se suonano il rap, quindi Il triplo, forse. Mi sa. Però bello, le diarie, 190 al giorno, euro al giorno di diarie in più allo stipendio, in più a tutti i rimborsi spese, cioè privilegi che non erano più giustificati. Infatti l'ente era fallito tecnicamente dal punto di vista economico, tutto vero, benissimo la cooperativa. Però io dico solo una cosa, da non amante dell'opera, ma non è questo il punto, cioè la lirica in Italia è italiana, è il made in Italy. Chissà quanta gente dall'estero ambisce a venire in Italia a sentire l'opera. Tantissimo. in Italia. Ci sono, quindi, molte persone che studiano l'italiano per comprendere le parole dei libretti, quindi di non Verdi. Dobbiamo disinvestire su questo, attenzione a non buttare via il bimbo con la condivido la posizione, no. Come condivido anche la questione, adesso non so se chiamarli privilegi, però io ho lavorato, mi è successo di lavorare più di una volta all'Opera Lirica, una volta come attore, dove leggevo una sentenza semplicemente perché io non so cantare, e effettivamente è abbastanza stupefacente vedere dei meccanismi che con il tempo si sono forse anche un po' incancreniti, quindi ovviamente è come se fossero degli scatti di anzianità, e quindi effettivamente ci sono un sacco di regolamenti sindacali giustissimi e altri che rischiano di limitare le produzioni, nel senso che diventano dei costi veramente ingestibili. E il punto era proprio i costi. Infatti, però ho la sensazione, sì, correggimi se sbaglio, che anche questo tentativo, che non so se sia una buona notizia questa di Marino, sia un po' come di azzerare un certo tipo di discorsi, perché sta chiedendo all'orchestra tipo di riconoscersi come un unico soggetto. Adesso è un soggetto privatistico. Sì, sono una cooperativa. A quel punto si rifà il contratto e quindi saltano tutte anche delle tutele che invece sono fondamentali, sindacali, che sono state guadagnate con lotte di anni in questo senso. 800 24 00 24, tra poco parleremo anche di come investire il proprio TFR in busta o no, vogliamo il vostro parere, ma la storia che vi andiamo a raccontare è totalmente diversa. Andiamo in Sicilia, birrificio Messina. Questa La mia birra, NCB, una canzone diciamo metal ma ironica, la storia di una storia d'amore tra il protagonista e la sua birra, che è una bionda. Parliamo di birra. Tu, certo, bevi birra, Gabardini? Io bevo birra, sì. Gli italiani bevono sempre di più birra. Non a quest'ora, diciamo. Non a quest'ora. Mm. E parliamo soprattutto del birrificio Messina, e abbiamo convocato il presidente della cooperativa Birrificio Messina, Domenico Sorrenti. Buongiorno. Buongiorno. Perché? Perché nella settimana in cui gli italiani sono alle prese con questa, diciamo, proposta, ennesimo annuncio, proposta di Renzi, tra l'altro che già fatta anche in passato, utilizzare il TFR per aumentare, insomma, un po' la busta paga, oppure in alternativa tenerselo lì, avere il gruzzoletto quando serve per fare cosa. Voi l'avete impiegato, non solo quello, per fare cosa? Noi abbiamo impiegato una prima volta il TFR, tutto il nostro TFR, alla Birra Driscele, per investire sullo stabilimento. Poi il datore di lavoro non è andato più avanti, adesso stiamo tentando nuovamente il nostro TFR a fare il birrificio Messina, di riportare la produzione a Messina, in questa città che come birra è una città storica. Ecco, perché questo birrificio ha una storia, no? Da quando nasce? E nasce nel 23. Nel 1923. Nel 1923, sì. Quindi a 90 anni. Sì, sì. E... nasce come, come Bira Messina, sì. Poi è stata acquisita da Heineken, dopo, di, dopo è stata acquisita dalla Bira Triscele e adesso noi stiamo facendo uno stabilimento nuovo da, partendo da zero. Ecco, perché nasce, ma a un certo punto nasce un secolo fa, ma a un certo punto rischia anche di morire. Quando è che il birrificio va, va vicino al fallimento? Insomma, vicino al fallimento è andato dal 2008 in poi, uh-huh, alla nuova gestione. Ma che era, era già Heineken? No, no, ah. Heineken aveva passato alla Bira Triscele, ah, la società Triscele con dottor Faranda, che era l'amministratore unico. Sì. E là già le cose andavano male. Adesso noi ci ma noi siamo convinti che è andato male non perché non si vendeva la birra, ma per altri scopi, perché quel terreno dove c'era lo stabilimento, sì, vecchio è diventato edificabile, perciò fare 350 appartamenti più un centro commerciale, stando seduti sulla scrivania è meglio di portare avanti uno stabilimento. Cioè, scusi, che si volesse, che si, diciamo che c'era un intento affinché lo stabilimento chiudesse di modo che poi si potessero edificare quei terreni. Ma questa cosa però non è accaduta, il terreno è edificabile ma c'è ancora il birrificio sopra. C'è il birrificio, diciamo, non, sì, è, non, non funziona più, ha dal 2010 che non va più avanti, cioè è stato abbandonato quel birrificio. E quindi voi adesso dove state? Noi ci hanno assegnato due capannoni, la regione siciliana, nella zona Ladderia, li stiamo ristrutturando e dopodiché inizieremo la produzione. Ah, quindi avete, avete dovuto, diciamo, ricostruire completamente un nuovo birrificio? Esattamente. Perché esattamente loro vogliono edificare sul terreno del vecchio birrificio. Ah, ok. Esattamente, sì. Senta, ma a questo punto quanti operai sono coinvolti in questa ripartenza? Siamo in 15. Perché prima invece quanti eravate? Eravamo 41, sì. Dopo un anno di presidio che abbiamo fatto davanti al vecchio stabilimento abbiamo visto che nessuno si faceva avanti, non c'era nessun imprenditore messinese che si, che si faceva avanti per scommettere il nostro sogno di riportare di nuovo la produzione. Ci siamo messi in cooperativa facendo una riunione, tutti e 41, e firmando dei moduli di adesione alla cooperativa e non adesione. E su 41 siamo rimasti in 15. 15 persone? Hanno fatto altre scelte, sì. 15 persone, insomma quasi un terzo, non è neanche, sì, poco, che hanno investito, stanno investendo quanto anche di tasca propria, di tasca vostra? Si aggira tutta la somma, quasi 600.000 euro. Beh, però insomma non, cioè, è, voi non avete, è poco, rilevato in pratica il birrificio? No, noi non abbiamo rilevato, noi lo stiamo costruendo nuovo di sana pianta, chiamandolo denominazione birrificio Messina. Quindi avete rilevato il marchio il in marchio. Qualche modo? No, no, no, no, no, il marchio Bira Messina rimane ad Heineken perché allora è stata venduta ad Heineken. Noi usciremo con la nostra birra chiamandolo birrificio Messina. Cioè, a voi rimane soltanto il savoir-faire, cioè la vostra esperienza, quello che sapete fare per esatto, quanto riguarda la produzione. Perché per il resto dovete ripartire completamente da zero. Da zero, però la fortuna nostra è che non stiamo cambiando lavoro e che sappiamo fare la birra e professionalmente siamo abbastanza preparati. No, ma questo non lo metto in dubbio, però dico che quindi in realtà voi in pratica siete degli imprenditori che avete deciso di fare birra, non è che avete rilevato il vostro vecchio birrificio con il TFR? Non lo possiamo rilevare il vecchio birrificio, perché il vecchio birrificio il datore di lavoro ha chiesto il fallimento, un concordato fallimentare. Diciamo che è vandalizzato il vecchio stabilimento, perché è stato vandalizzato, ha da tre anni che è fermo e i macchinari non funzionanti e che non funzionano poi perfetto, non vanno più. E quindi voi andate in un altro posto, perciò, in questi capannoni. Noi abbiamo scelto di spostarci e costruendo un birrificio nuovo. Senta, lo chiedo anche a lei, che però naturalmente ha altri problemi al momento, cioè quello proprio di ricrearsi una situazione di lavoro, un lavoro che non c'è più, ve lo state inventando con questa attività imprenditoriale, con questa cooperativa che state mettendo su per riprodurre birra di nuovo in Sicilia. Il TFR, anche alla luce però a questo punto un po' della vostra esperienza, lei cosa ne pensa? Cioè, in busta paga oppure tenerselo lì come gruzzoletto perché non si sa mai? Io penso che un TFR con 100 euro in più in busta paga non risolviamo niente e poi ci troviamo alla fine degli anni lavorativi con niente in mano. Io penso che invece il TFR dovrebbe essere investito, come stiamo facendo noi, a un'azienda seria, degli imprenditori seri, per rivarullare tutto questo e portare un lavoro avanti. Senta, ma quando la beviamo la prima birra? Io spero alla fine di febbraio, inizi marzo. In primavera. In bocca al lupo. In bocca al lupo. Berremo noi tutti birra Messina. Noi vogliamo berla questa birra. Siamo curiosi di sentire com'è. Va bene. Un saluto a tutti gli altri colleghi e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci. 800 24 00 24. Questa insomma è una storia, speriamo a lieto fine. Non è che riguarda direttamente la questione del TFR, però diciamo una morale dietro, c'è cioè una lezione se vogliamo. Beh, un po' riguarda in realtà il TFR, direi quasi nella direzione di forse è meglio una gallina domani piuttosto che un uovo oggi, perché con anche pezzi di TFR loro sono riusciti poi a prendersi un birrificio. Se avessero preso 100 euro in passato in tutte le buste paga, probabilmente non avrebbero avuto i soldi sufficienti. 600.000 euro hanno investito. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vogliamo anche la vostra opinione su questo. Tra poco, dopo il traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Allora, ascoltatori, e anche al gioco, anche per il gioco mi raccomando, vi chiediamo qual è la notizia che vorreste sentire in onda nei prossimi 15 anni di Radio 24, visto che adesso festeggiamo 15 anni di compleanno, anzi l'hashtag su Twitter è auguri Radio 24, scriveteli se volete farli, così noi li leggiamo mano a mano che andiamo in onda, se volete dedicarli. Li leggiamo in onda, certo. Anche a noi, al programma, quello che vi pare, auguri Radio 24. Ai parenti. Andiamo, no, sì. Alla mamma di Gabardini. Donatella da Pisa, buongiorno. Buongiorno, auguri buongiorno a tutti voi. Grazie a tutti noi ascoltatori. La mia domanda per uno speciale potrebbe essere sulla scuola, in particolare l'università, le scuole private e le possibilità che si potrebbero avere i nostri studenti, noi famiglie nell'Unione Europea. Cioè lei vorrebbe uno speciale che parli di scuola, ma in che senso di scuole private? Università e quindi alternative anche le università private. Ma ci dia un bel titolo, ci dia un bel titolo come notizia. Allora, le università sia pubbliche che private oggi nell'Unione Europea per dare un supporto, un consiglio ai nostri studenti, le migliori. Per chi deve scegliere, per chi deve fare una specializzazione in master, economia o anche le vostre scuole di Radio 24 che ce ne avete tante. Mi sembra un titolo un po' lungo però. Lo so, però è bello, deve essere lungo perché deve essere specifico poi per chi serve, però penso che serva tante persone. No, è che eravamo anche in cerca un po' di una notizia così sensazionale del tipo l'università non costa, oppure tutti quelli che si laureano lavoreranno, in questo senso. Le chiedevo un titolo, però va benissimo. Ha fatto la sua proposta, vediamo. Poi va bene. Intanto però bisogna approcciarsi a un'ottima università con ottime competenze e quello sarebbe un bel valido aiuto, no? Va bene, Donatella, grazie. Una cosa che non costa e poi non porta frutto, non va bene. No, dai, certo. Giusto. Grazie a tutti voi. Intanto lei vince la maglietta, come tutti gli ascoltatori che oggi andranno in onda. Quindi bisogna lasciare la taglia? Ornella dalla provincia di Treviso, forse. Questa è una bella domanda. Me ne occupo io? Ornella, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Auguri Radio 24. Grazie. Grazie. Allora, la mia proposta, proprio della serie per cronache da un mondo migliore, sì. Servizi, approfondimenti, sarebbero due in realtà le mie idee. La prima è quella che potrebbe avere come titolo, visto che voi mi sembra di aver capito, cercate anche un titolo, sì. È un mondo a misura di bambino, tutte le iniziative che siano per rendere la vita dei ragazzini, dei bimbi meno stressata, meno dipendente dagli orari degli genitori, del lavoro e quindi delle strutture che li accompagnino, che ne so, al mattino anziché doversi alzare con tutta questa ansia perché abbiamo 50 miliardi di cose da sistemare, con un po' di calma, che poi abbiano i loro spazi, che abbiano sempre chi li ascolta, che abbiano dei luoghi dove ritrovarsi. Anche Ornella però non ce l'ha il titolo, non ce l'ha l'ha detto, cioè, ce l'ha a misura di bambino. Beh, è un po' ampio. Comunque, infatti, va bene, noi vediamo. Non è che stiamo cercando un titolo, è che stiamo cercando diciamo una notizia circoscritta. Una notizia... Se no, in generale dice che le cose vadano meglio e non è esattamente una notizia. In questo alla senso, fine è una notizia, la notizia che uno è un titolo. Spera di poter sentire presto su Radio 24. Così, insomma. Matteo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. La notizia che vorrei leggere un giorno è... No, ascoltare a Radio 24 e non leggere. Ascoltare a Radio 24. No, se parti così, Matteo. Vabbè, puoi anche leggere su Sole 24 Ore. No, non si può. No, il compleanno è di Radio 24. No, il quindi... compleanno è della radio. Noi il cartaceo un po' ci schifa. Matteo, ricomincia allora, per bene. La notizia che vorrei sentire a Radio 24 un giorno, sì, è che i paesi industrializzati che hanno stipulato i vari accordi per la riduzione del gas serra, delle emissioni inquinanti, sì, hanno mantenuto gli impegni che hanno preso. Ecco, quindi diciamo la chiusura del cerchio, Kyoto. Sì. Esatto. Rispettano gli impegni, esatto, che vengono presi, ma che poi nessuno rispetta mai. Matteo, mai rispetta. Questo è uno speciale che vorrei sentire anch'io, alla radio, questo qua. Speriamo. Credo che tutti vorrebbero sentirlo. Grazie Matteo. Grazie mille Matteo. Complimenti. 800 24 00 24. Questo comunque ha vinto la maglietta. Già comincia a delinearsi qualche cosa, secondo me, cioè nel senso, sì, questa sì, era già possibile. Uno speciale sull'ambiente, cioè raggiunti, giusto, gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Festeggia oggi il giorno, il 10 ottobre diventa. Io ho scritto tutti aderiscono a Kyoto. Va bene, insomma. Vediamo, perché noi poi dobbiamo decidere. Dopo, e ricordiamo, sì, che si vince la maglietta a tutti quelli che chiamano. Anzi, tutti quelli che vanno in onda che hanno chiamato. Ci sentiamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring up my doorbell. I feel the love. Feel the love. Rientriamo così con Chandelier di Sia, la canzone che ci segnala Mimmo Biondi. Grazie. Grazie mille, io sto ballando. Sono molto contento. Se ci fossero delle telecamere a riprendere questo momento, sarebbe un bel momento, tu dici giustamente. 800 24 00 24, vogliamo sapere qual è la notizia che vorreste sentire su Radio 24, lo speciale più importante nei prossimi 15 anni, ma mettiamola così, visto che oggi festeggiamo proprio oggi il compleanno di Radio 24, 15 anni. E l'hashtag ufficiale su Twitter è cancelletto auguri Radio 24. Se lo li diciamo fate adesso, di tweet di auguri, sì, se li fate adesso noi i più belli li leggiamo anche in diretta e twittate, dai, esatto, twittate auguri Radio 24, è stato così trending topic al secondo posto a un certo punto, sì, sì, a un certo punto della giornata, sì, vogliamo riportarlo trending topic proprio oggi che è il compleanno, esatto, e che è sabato mattina, soprattutto che qua ci siamo solo noi. Allora, Giù dalla Torre mi scrive su Twitter: non posso telefonare perché la malattia me lo impedisce, ma un giorno mi piacerebbe la notizia, sconfitta la SLA. Saluti Roberto, bellissima questa, e auguri a Roberto. Ciao Roberto. Andiamo, con chi andiamo? Giovanni da Pavia, buongiorno. Pronto, buongiorno, signor Milani. Buongiorno. Io volevo chiamare per, sì, il TFR, no? Dica. No, volevo dire, io sono un operaio che lavora nell'ambito ristorativo, cioè a me personalmente non mi piace questo fatto che vogliono fare, perché mi vanno a rompere un mio salvadanaio personale, ecco, direi. Sì, cioè lei lo vuole tenere lì come gruzzolo per quando, sì, ce ne sarà bisogno. Noi abbiamo, sì, raccontato la storia di questi operai del birrificio Messina che di fronte alla crisi hanno potuto investirlo per rilevare, perché l'azienda. Ce l'avevano, perché diciamo, hanno potuto investirlo. Se ce lo mettono in busta poi non ce l'avremo. In che azienda lavora Giovanni? Ristorazione? Sì, un ristorante e pizzeria a Pavia. No, però direi, siccome per le famiglie più che altro, sì. Avendo una famiglia, io penso che uno più non ci sono mai soldi che bastano, in base se loro le passano nella busta, no, questa percentuale di denaro, si sa che poi in un modo o in un altro, vabbè, la si mette in commesso, ma la si fa fuori, si spendono, sì, bravissima, sì, sì. Esatto. Va bene, Giovanni, grazie. Tra l'altro lei vince la maglietta, anche lei, perché è andato in onda. Tutti quelli. Dica. Volevo farvi tanti auguri. Ma poi per la Radio 24 come la va bene, va bene. Grazie mille, la maglietta gliela davamo lo stesso comunque. Grazie. Perché tutti quelli che telefonano e che vengono messi in onda oggi vincono la maglietta di Radio 24. Ok, tra l'altro anche questa idea che tutto quello che circola negli stipendi, nelle tasche degli italiani debba essere speso in consumi, questa cosa ossessiva dei consumi, a me sembra anche un po' un'idea folle, cioè non lo so, forse anche ripensare un po' all'economia, come spendere, investire, risparmiare. Sì, mi sembra una visione anche un po' tanto strumentale, perché l'unico modo per far certo. ripartire l'economia è dare a tutti una mancetta di modo che loro se la spendano e la buttino via. Tutti vorremmo vedere il più davanti al PIL italiano. Detto questo, però, se la strada deve essere spendere ossessivamente tutto quello che uno ha, poi quando ci sono i problemi che fai, devi mettere da parte qualcosa. Infatti è proprio questo la questione. Io ovviamente non ho grande esperienza di TFR, però la sensazione che in realtà nel momento che lo Stato invece decide di trattenerlo e poi dartelo alla fine è anche un pochino per educarti in qualche modo, perché uno va a finire che se ce li hai i soldi poi li spende. Riccardo da Modena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Buongiorno. Ecco, la notizia che io aspetto da un anno da voi, sì, è questa. Clamoroso, la Merkel sfora il 3%. Cattivello, sadico. Ah, sì. Un po' di problemi anche per loro. Esatto. Beh, ce li hanno direi in questo momento un po' di problemi anche loro. Esatto, non credo che ne godremmo tutti. No, prima o poi la direte. Va bene, Riccardo, questa è bella, questa è bella. Si candida anche lui per vincere i biglietti per la mostra di Chagall. Aspettiamo altre notizie. Siamo arrivati ormai alle notizie vendicative, direi. Cioè, sì. Diciamo... No, è di pura attualità, non è vendicativa, è reale. Va bene, grazie mille. Giovanni, prego. Dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo intervenire proprio sul discorso. Prima di tutto, auguri per Radio 24. Grazie. E sul discorso del TFR, io ho proprio vicino a me un amico che lui è stato licenziato. La ditta chiusa, il TFR non gliel'hanno dato. È più positivo fare la scelta singolarmente, nel senso uno può avere bisogno di prendere per mesi, o uno dice. Lo voglio alla fine, certo, cioè dice è una questione soggettiva, molto soggettiva, anche giusto. Per la crisi che ci sono oggi. E poi il discorso che TFR, se una ditta chiude come in questo caso, ma in molti casi in Italia, sarà poi l'Inps a intervenire, pertanto avremo ancora dei costi all'interno della struttura Italia. Allora, se TFR è un diritto della persona, perché alla fine li mette da parte lui, fa la scelta di averli un tot al mese, e se ha crisi economica gli chiede, se non ha crisi economica lascia un'azienda che può investire. Certo, però, quello che ci chiedevamo è il rischio non è che in questo modo tutti dicono senti è meglio prenderli adesso che non si sa mai dopo se ci saranno meno, e va a finire che dopo invece siccome avremo tutti delle pensioni molto basse poi avremo delle difficoltà più avanti? Certo, è un rischio comunque relativo, perché uno può fare la scelta di mettersi da parte e fare un investimento in una... Certo. Grazie Giovanni. Grazie mille. Intanto arrivano un po' di tweet, adesso che li abbiamo sollecitati. Giulia Crivelli, che è una collega, quanti ricordi, quante soddisfazioni, quanti anni di giornalismo serio. Lunga vita a tutti voi. Poi c'è Sara Bragonzi, un'altra amica, auguri Radio 24 e alle notizie positive, quindi queste siamo noi. Poi che altro? Anche di sabato la passione si sente, dice Carlo Nardone. Beh, visto che in realtà è oggi, auguri Radio 24. Ricordiamo gli account che si può scrivere sia Radio 24, sì, sia l'account di Si Può Fare, che è @sipuofare24. Si può fare 24. Il mio account che è Carlo Gabardini. Il mio Ale Maurizi. C'è anche Simone Saccucci che ci scrive. Dalle periferie una notizia incredibile. È arrivato il centro. Sì. Auguri Radio 24. Beh, è bello che tweeti nel momento che non interviene, invece sì. Twitta, è giusto. Il nostro canta storie delle periferie, lo abbiamo avuto tante volte con noi, adesso lo risentiremo sicuramente. Ce ne sono altri? Luigi Pezzella, siete la mia radio del cuore, auguri Radio 24. Va bene, 800 24 00 24, invece per raccontarci la notizia che volete ancora ascoltare, vorreste ascoltare presto su Radio 24, la proposta più bella vince i biglietti per la mostra di Chagall. Ti tutti leggo quelli che vanno in onda, la maglietta di Radio 24. Un tweet velocissimo che è sulle notizie, che dice: la notizia che vorrei leggere è: l'Italia il paese più meritocratico dell'Europa. Traffico. Si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Tutti a dire: non esiste l'Islam moderato. Ieri è stato tutti no, momento, tutti, io no per esempio, ma molti a dirlo. Non c'è alternativa, si sente dire, no, alla guerra, a quello che, all'azione militare che viene fatta contro l'ISIS in Iraq e in Siria, perché non c'è un Islam moderato con cui dialogare nelle terre dove il califfato sta prendendo piede. E invece l'Islam moderato c'è, si sta svegliando, si sta facendo sentire. C'è stata una manifestazione a Parigi la settimana scorsa, una manifestazione a Milano, una fiaccolata, e cominciano anche a levarsi alcune voci, magari isolate, come per esempio quella di Bouchaib Tanji. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Che è il presidente della Federazione Islamica Regionale del Veneto, uno di quelli che ha detto: no, è il momento di dire qualcosa, no? di dire che cosa, Bouchaib? Sì, prima di tutto vi presento gli auguri di Radio 24, che ho sentito prima, che oggi è il vostro compleanno. Grazie. Grazie mille. L'ISIS per noi, noi l'abbiamo condannata perché non rappresenta l'Islam. Qualsiasi forma di violenza che taglia le teste, fa scorrere sangue e toglie le anime alle persone, questa nessuna religione chiama a questo. Quindi un secco no a questa ISIS, a qualsiasi fenomeno che semina terrori e infanghi l'Islam. Però abbiamo visto per esempio in questi giorni uno speciale di Sky all'interno dell'ISIS, in cui si vedevano delle persone che provavano a indottrinare anche dei bambini, dando degli infedeli a tutti quelli che ce l'hanno con loro. C'è questa associazione che viene fatta, però, cioè, si sente dire, non so, in Islam c'è il velo per le donne, non si può bere l'alcol, cose che invece noi occidentali facciamo, e quindi, diciamo, il rifiuto dei nostri valori poi spinge qualcuno anche all'odio nei nostri confronti di occidentali. C'è questa equivalenza o no, secondo lei? Sì. Allora io dico solo una roba: il peggior nemico è l'ignoranza. Quando uno è ignorante, io continuo a darlo ascolto. Questo è ignorante, io non gli devo dare ascolto. La religione islamica è una religione di pace come le altre religioni, come i cristiani, una religione di pace come tutte le altre religioni. Se qualcuno non ha la testa a posto e viene a seminare odio, non dobbiamo condannare l'Islam, ma la persona stessa che chiama all'odio. Questo è. L'Islam non ha mai chiamato alle guerre, anzi l'Islam, e soprattutto io che sono marocchino, sì, noi viviamo in pace, cristiani, musulmani ed ebrei. Ma perché secondo lei però c'è questo consenso? Ora, lei è marocchino, quindi viene da una regione completamente diversa, distante e anche lontana dall'Iraq e dalla Siria, però credo che sia in grado di leggere e di decifrare quello. Perché c'è questo consenso nei confronti dell'ISIS in Iraq e Siria? Da parte della popolazione, insomma, di una parte della popolazione. Ma io non ho capito bene la domanda, scusa. Perché c'è questo consenso da parte di una parte della popolazione che sostiene comunque l'ISIS, ne fa parte, lo alimenta, sono pronti a combattere quelli che loro definiscono degli infedeli? Perché c'è questo consenso nei confronti dell'ISIS? Ma io credo solo una cosa: quando una persona è cresciuta in un ambiente, è stata istruita, sa distinguere tra il male e il bene. Per me questi sono banditi ignoranti che seminano guerre. Non serve l'ascolto, non serve il dialogo con loro. La mano dura con queste persone che seminano odio, questo è. Però hanno molti proseliti o ci viene venduta così? Cioè, sono tantissimi oppure sono qualche migliaio di pazzi? No, io non ho mai visitato un paese arabo di questi. Io sono venuto dal Marocco in Italia, non ho mai visto un paese, anzi ho visitato più posti in Europa che nel mondo arabo. Vengo dal Marocco, non ho mai visitato un paese arabo, però, a dire la verità, questo è. Ma la sua opinione, cioè, quindi lei non c'è mai stato, ma pensa che questo ISIS abbia molti sostenitori oppure sono dei, come no, dicerei, pazzi isolati? La domanda che si fa è: chi ha formato questo ISIS? Questa è la domanda. Chi l'ha formato? Chi l'ha aiutato? Da dove vengono i soldi? Da dove vengono tutti questi materiali, queste armi? E secondo lei di chi l'ha aiutato? Io sono come lei, non so chi l'ha aiutato. La domanda è questa, sono le persone che sono al potere che devono rispondere a questa domanda. Beh, ma insomma, lo sappiamo tutti che l'ISIS è nato in Siria come opposizione anche al regime di Assad, e quindi in un momento iniziale molte potenze occidentali hanno pensato di che fosse una soluzione. Il solito errore di sostenere uno per fare la guerra all'altro, quindi questa responsabilità c'è. Però quello che mi sembra interessante è anche capire proprio all'interno dell'opinione pubblica araba e musulmana, non solo araba, per quanto riguarda il sostegno o meno a questo ISIS. Insomma, lei su questo però non si sbilancia, perché dice: non ci sono mai stato, non so nulla. Però lei pensa che la maggioranza delle persone che vivono nel nord dell'Iraq in questo momento siano vittime dell'ISIS? Certo che sono vittime dell'ISIS, che siano cristiani, musulmani o ebrei, sono vittime di questa ISIS. Io credo di sì, perché abbiamo visto persone che sono state cacciate via dalle case, persone che sono state uccise, o può darsi che hanno paura e li sostengono, questo è il problema. Anche per paura, certo. Anche per paura. E secondo lei è giusto, mi sembra di aver capito da quello che diceva prima, fare anche azioni militari, cioè la guerra proprio all'ISIS, o bisognerebbe usare altre strade per sostenere comunque la popolazione, per dare un aiuto a chi è vittima dell'ISIS, però senza bombardare? Lei che ne pensa? Ma le guerre portano sempre al peggio, ci saranno sempre vittime innocenti. Si cerca di risolvere il problema. Io non so come risolverlo, non sono al posto per dire come risolverlo. L'unica cosa che posso dire è: noi condanniamo questo ISIS, non ha posto fra di noi musulmani, questo è. Senta, lei dice che bisogna avere anche le moschee aperte come luoghi di incontro per favorire proprio questo dialogo, no? Anche tra gli italiani che magari non sanno e pensano che l'ISIS sia rappresentante dell'Islam e voi che invece dite che non è così, giustamente. Per esempio anche facendo sermoni in italiano, come ha proposto qualcuno, anziché in arabo? Ma l'abbiamo sempre fatto. Io l'associazione dove appartengo io è nata nel 2004-2005. Il sermone in italiano l'abbiamo sempre fatto in lingua araba e in italiano, perché abbiamo altre nazionalità: del Burkina Faso, del Mali, del Senegal, del Kosovo, dell'Argentina, di tante altre nazionalità. E la lingua che parliamo tutti è l'italiano, questo è il fatto. Va bene, grazie per essere stato con noi, Bushaib Tanji, presidente della comunità della Federazione Islamica Regionale del Veneto. Insomma, voce. Sì, dica. Un'ultima cosa, oggi è la festa di sacrificio, un augurio dal mondo musulmano a tutta l'umanità e a tutte le persone di questo mondo. Come si festeggia la festa del sacrificio? Il sacrificio noi è la festa del sacrificio del profeta Abramo, quando voleva sacrificare il figlio Ismaele, e Dio gli ha mandato l'agnello come posto per sacrificarlo, e oggi noi diamo un sacrificio a Dio che è l'agnello. Perfetto, lei si era preoccupato perché magari si festeggiava tipo sacrificando una radio, siccome oggi è anche il compleanno di Radio 24, non volevamo che la festa del sacrificio fosse il sacrificio di Radio 24. No, vi presentiamo gli auguri e ottimo, vi auguro buona fortuna, ottimo, e buona continuazione. Oggi doppio festeggiamento, grazie allora, grazie, buona giornata. Mille, buona giornata. Grazie a voi, salve. Allora, abbiamo qualche ascoltatore? Sì, ce l'abbiamo. Tantissimi ne abbiamo. Chiamo Lorenzo da Pescara, buongiorno. Lorenzo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Salve, senta, io sono a favore del TFR per un semplice motivo. Cioè, sono del TFR in assoluto o del TFR in busta paga? No, scusi, sono del TFR in busta paga ogni mese. Per un semplice motivo, perché a oggi sono quasi 5 anni che attendo un TFR totale da un'azienda che non c'è più. E praticamente tra vari eventuali problemi di fallimento, non fallimento, eccetera. Sono quasi 5 anni che aspetto. Se l'avessi avuto in busta paga ogni mese, magari avrei fatto pure qualcosa di mio e cioè, non attendere in vano in questo, questi soldi. Questo c'è molto chiaro ed è chiarissimo la motivazione, c'ha tutte le sue ragioni, però il fatto del caso personale diventa un po' come per dire: io l'ultima volta che ho fatto un bancomat mi hanno rapinato, allora voglio che chiudano tutti i bancomat del paese. Quindi è comprensibilissima la sua posizione, però quello che ci chiediamo è: secondo lei, al di là, diciamo, poniamo l'ipotesi che lei invece lo riceve questo TFR, trova che sia più saggio avere tutto il TFR alla fine del proprio lavoro per realizzare dei progetti, o lo preferisce in busta paga? Prego. No, ma io penso che sia una destinazione da bloccare, tra virgolette, fissa ogni mese, perché ci sono parecchie aziende che aprono, fanno quello che devono fare, diciamo, anche di losco per qualche anno, chiudono. Va bene, Lorenzo, grazie. Ho capito che è difficile per un ascoltatore come questo, che ha una vicenda personale con me, avere un punto di vista diverso. Però è giusto anche quello che diceva Carlo: non è che sulla base di questo si può fare un metro di misura per tutti i TFR di tutti gli italiani. No, perché in quel caso anch'io direi subito: ma li preferivo subito piuttosto che non averli, e ci mancherebbe altro. Il problema è capire per tutti che cosa sia meglio. Ruggero dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto auguri. Grazie. Per la radio e per le trasmissioni che fate, sempre bellissime. Grazie mille. Niente, mi piacerebbe alzarmi un mattino e sentire al telegiornale finalmente l'occupazione in crescita. Bello, quindi questa è la buona notizia, diciamo, che vorrebbe che noi dessimo. Esatto. Va bene, e ottimo. Poi, se posso dire, in realtà possiamo già dire che c'è questo dato, perché l'occupazione sta crescendo pochissimo alla volta, poche migliaia di posti di lavoro, ma siccome ho una figlia che sta finendo l'università e mi piacerebbe molto. Per quando ha finito sua figlia l'università forse ce la facciamo. Grazie Ruggero, grazie. Posso dire qualcosa sul TFR riguardo un'esperienza personale? Sì, però veloce, perché abbiamo altri ascoltatori. Io sono andato in pensione e per fortuna il TFR ce l'avevo, sono riuscito a farmi il garage. Se l'avessi avuto in busta paga non sarebbe stato possibile. Va bene, perfetto, grazie. Grazie mille, buon sabato. Facciamo anche Matteo? Facciamolo, dai, da Grosseto. Regaliamo anche questa maglietta di Radio 24 per il compleanno di Radio 24. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Dunque, mi sembra che l'idea di potere, il titolo di potere che è stata colonizzata la Luna, che è di massa, sarebbe una colonizzazione di massa, mi sembra che potrebbe essere una buona spinta all'economia. Non abbiamo capito, ci deve ridare la notizia. La notizia che vorrebbe sentire, qual è? La notizia vorrei che vi fosse la colonizzazione della Luna, una colonizzazione di massa. Ah, la colonizzazione di massa, cioè, della Luna. Addirittura la colonizzazione, neanche andare sulla Luna, cosa che è già successa. Perché la colonizzazione? Perché vediamo che c'è una crisi mondiale, una crisi dell'Europa, una crisi dell'economia, e ciò potrebbe essere una bella spinta a che vi siano nuovi investimenti, nuove tecnologie. E nuovi mercati, però i nuovi mercati si aprono solamente se sulla Luna c'è un'altra popolazione, per esempio di extraterrestri, perché se no non si apre un nuovo mercato. Oppure vuole spostare tutti sulla Luna di modo che qua stiamo più larghi? No, lo scopo non è questo. Dico, come vi è stata la scoperta dell'America, che ha dato una spinta, ha dato la possibilità di emigrare. Certo, è un paragone un po' azzardato, Matteo, però è interessante. Va bene, perché grazie. C'erano gli indiani d'America in America, invece sulla Luna pare che non ci sia niente. Esatto, c'è meno da fare. C'è meno sulla mercato, Luna, diciamo. Se apri una pizzeria sulla Luna è più difficile che tu abbia dei nuovi clienti. Giorgio Turotti, auguri Radio 24. L'hashtag un nome e una garanzia nel mondo dell'informazione che arriva fino al cuore. Auguri e auguri. Dopo tanto cercare, ho trovato la radio ideale per me. Valeria, auguri Radio 24. Questo è Alessio che legge dei tweet. Ne hai tu da leggere? Non ne ho, e li stai leggendo tu, lascia che lo stesso. Da quando vi ho incontrato non vi ho più lasciati. In auto sempre solo Radio 24, non ascolto nient'altro. Davide Zambelli, auguri Radio 24. Benissimo, ci fermiamo. 80024 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nella casa la situazione è tesa, confusa, la scena è divisa, esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse, già oggi sono piene le fosse, si accusa di vendersi all'incanto chi intanto fa il possibile per rendere più accessibile il messaggio al largo pubblico, a quell'utente in astinenza di concetti costruttivi la cui assenza crea effetti negativi alla coscienza della grande massa, priva di qualunque conoscenza, anche la più bassa, di questo fenomeno mondiale che va sotto il nome di pop. Filosofia di vita, approccio culturale alternativo alla realtà di ogni giorno. Mi guardo intorno, mi informo e torno a raccontare nella forma verbale a me più congeniale, quella dell'istinto razionale che mi spinge a commentare, a sottotitolare quel che vedo a cui non credo. Usando il rap interferisco e lede non mi siedo e cedo laddove intravedo uno spazio libero d'azione per fare informazione, incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un homeboy e faccio la mia cosa. E faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa. Perché nella casa faccio la mia cosa nella casa faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa faccio la mia cosa, perché nella casa faccio la mia cosa. Con le parole di Frankie High Energy e la musica soprattutto che abbiamo scelto come sigla dell'iniziativa di cittadinanza attiva disponibile, facciamo gli auguri anche a tutti quelli che fanno cose nella casa abbandonata, cioè nei luoghi di edilizia abbandonati, perché è importante recuperarli, farci delle cose dentro, dargli nuova vita anziché costruire ex novo. Va bene anche che siano fabbriche, anche se non fa rima con cosa, noi va bene anche che siano fabbriche, va bene anche che siano quello che volete, insomma, delle ex pensiline, quello che volete. Ne parliamo oggi con Adriano Paolella, che è direttore scientifico di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono buongiorno. Il direttore scientifico della campagna disponibile. Della campagna cittadinanza disponibile di Cittadinanza Attiva, che è proprio questa campagna a cui stiamo dando voce ogni sabato e domenica qui su Radio 24, perché ci crediamo profondamente. Quanto è importante, autore tra l'altro lei di un libro, People Meet in the Recycled City, proprio dedicato a tutte queste esperienze di recupero dei luoghi abbandonati delle città. Quanto e perché è importante recuperarli? Per fattori economici, sociali, di degrado, di energie da rimettere in circolo. Tutto questo che ha detto, nel senso che gli edifici sono dei contenitori di energia grigia, energia che noi abbiamo già investito per la loro costruzione, quindi non utilizzarli vuol dire perdere questa energia grigia che noi abbiamo già consumato. Hanno già portato degli impatti ambientali, quindi già hanno portato delle ristrutturazioni del territorio. Non utilizzarli vuol dire perdere anche questo impatto ambientale negativo che abbiamo portato, e poi sono una forte spinta per l'economia. Lei pensi quanto per un giovane imprenditore, per un giovane artigiano incidano i costi di trovare un luogo dove operare, certo. Gli affitti sono elevatissimi, i capannoni nuovi costano moltissimo, e noi abbiamo una quantità enorme di luoghi abbandonati che potrebbero essere messi anche con contratti temporanei a disposizione dei giovani operatori. Vorrebbe dire dare un rilancio all'economia nazionale fortissima, molto più di quanto possano comportare gli abbassamenti delle tasse o altre operazioni di questo genere tipo fiscale. E tutto questo si chiama energia, scusi, io sono quello stupido dei due, non il giornalista. Ma insomma, qui tra gli stupidi ce ne sono tanti, anch'io. Non mi permetterei mai. Ma si chiama energia grigia, cioè tecnicamente si chiama energia grigia tutto ciò che sono gli edifici già costruiti? No, è l'energia immessa per la costruzione edifici o di infrastrutture, quindi l'energia che noi abbiamo messo e che non si vede, nel senso che non è che si accende, è lì dentro questi edifici, perché per fare la calce, per spostare i materiali, per fare le fondazioni, è tutta energia che noi abbiamo messo. Non avevo mai sentito, ma non utilizzata, ferma lì, e che però occupa del suolo, come insomma ricordava lei, ha dei costi ambientali, perché un edificio abbandonato poi o è una forma di degrado, perché oppure ha bisogno di una manutenzione, e quindi ci sono dei costi che però vengono sostenuti a fronte di niente, perché dentro non ci succede più. Quanti sono gli edifici in Italia che avrebbero bisogno di avere una seconda vita? Ma allora la quantificazione non è mai stata fatta, nel senso che non c'è stato un censimento di questa enorme quantità. Noi sappiamo sicuramente a tratti che i capannoni, da alcuni censimenti, da alcune stime fatte, sono abbandonate, superano i centinaia di migliaia. Si parla di 400.000 capannoni abbandonati. Sappiamo in tutta che Italia? In tutta Italia. Ci sono circa 6.000 chilometri, per esempio, di ferrovie dismesse che stanno lì. Ci sono migliaia di case cantoniere. Con le ferrovie dismesse cosa si può fare con 6.000 chilometri di rotaia? Quella è una bella domanda. Perché settimana scorsa avevamo parlato delle stazioni, Con i 6.000 chilometri è più ardua. Sì. Ma insomma, intanto alcune di questi potrebbero essere messe in funzione proprio come vie di trasporto, perché non è che sono proprio piccole alcune di queste ferrovie. Immagino, non 6.000 piste chilometri. Ciclabili in alcuni casi, vero? Si parla? Sì, cioè che si mette la ruota in mezzo alle rotaie, è pericolosissimo. Che piste ciclabili sono? Sono mortali. No, no, diciamo che nel caso della pista ciclabile va rifatto il fondo della, della ferrovia, quindi va utilizzato il sedime, il tracciato e va cambiato. Però cioè, alcune possono ancora funzionare come ferrovie. Poi immaginatevi che molte di queste linee c'hanno vicino i caselli, c'hanno le stazioni. No, le quelli stazioni... sono dei posti bellissimi di cui abbiamo parlato anche settimana scorsa, esatto, che è un argomento che ci interessa sempre molto. Vogliamo parlare per esempio anche delle quantità di aree industriali abbandonate. Nel post terremoto dell'Irpinia furono costruite 104 aree industriali su 102 comuni, quindi ci sono due comuni che hanno almeno due aree industriali. Queste 104 aree industriali sono utilizzate pochissimo. La percentuale di quelle abbandonate è elevatissima. Che cosa si rifà di queste aree? Le aree industriali, ovvero. Scusi, Paola, ma lei c'ha un cellulare acceso vicino? Un altro telefono, qualcosa? No. Perché sentiamo. No, sembrava. Sta riusando un cellulare abbandonato. È un caso di riutilizzo. È un istinto irrefrenabile. È l'energia grigia. Senta, però, Paola, quanto questo auspicio di riutilizzo, no, che lei col suo libro, Cittadinanza Attiva, tutti quelli che se ne occupano, tutti i progetti che andiamo raccontando anche ogni weekend, realizzano, quanto questi auspici però sono solo sulla carta? Cioè, quanto c'è da fare ancora? C'è bisogno, che so, di una legge nazionale? Perché incentivi fiscalmente questa cosa? La prima questione da fare è che bisogna dare spazio ai cittadini per poter operare, perché già di attività che sono in corso per il recupero di questi beni ce ne sono tantissime. Quindi, prima cosa, prima di agevolare, bisogna non contrastare questi fenomeni, questi movimenti, queste persone che cercano di recuperare questi spazi. Intanto perché è un diritto del cittadino quello di gestire gli spazi del proprio territorio, specialmente quando questi spazi, questi edifici sono abbandonati, quindi non servono più a nessuno. Quindi la prima cosa è non ostacolare tutti i processi che in questo momento sono in corso in Italia per rioccupare, per riadattare, per recuperare gli spazi abbandonati. Questo è il primo punto. Il secondo punto è quello di capire che cosa vogliono i cittadini, ossia questi sono beni abbandonati. Uno vuole chiedere cortesemente a un cittadino che cosa ci potrebbe fare? Le posso dire, le aree industriali che sono enormi e sono abbandonate tantissime, nessuno ha mai chiesto ai cittadini che abitano vicino, visto il fallimento dell'industrializzazione, ma tu, figlio mio, che cosa ci vorresti fare con quest'area industriale? Vorresti farci un orto, vorresti che andasse tutti alla malora, c'hai una piccola attività da fare all'interno. Noi interveniamo sempre con progetti di scala superiore, senza sentire mai i cittadini. Invece lei dice che sentendo i cittadini potrebbero venire fuori delle proposte. Ma sì, perché la dimensione dell'intervento proposto dai cittadini non è mai grande, non è mai megalomane, non è mai una grande opera, sono sempre richieste di cose. Mi sembra di capire che rispetto a questi grandi interventi, grandi opere, non ci sia una grossa fiducia da parte sua. Giustamente, perché sono quelli che poi spesso falliscono, invece a volte lei al contrario dice i cittadini con piccoli progetti possono essere una garanzia, diciamo, anche di sostenibilità da questo punto di vista. Io dico che questa è una metodologia che non deve essere esclusa, per cui ci debbono essere degli interventi che sono di servizio pubblico, vanno un po' meglio verificati, ma insomma, che sono anche alcune opere, insomma, più grandi a livello nazionale, ma non si può escludere il fatto che i cittadini siano una parte attiva nella costruzione del territorio, del paesaggio, nella qualificazione. Ma per fare questo, Paola, poi ne riparleremo naturalmente, perché continuiamo i nostri appuntamenti nel weekend dedicati a questa campagna di cittadinanza attiva, ma ci sono le forme giuridiche? Cioè, adesso faccio una domanda che sembro l'esperto che non sono di questioni giuridiche. Infatti, cioè, il giornalista è lui, io sono sempre quello stupido. Per dare a queste associazioni, i cittadini, la possibilità di utilizzare questi edifici abbandonati, cioè, esistono delle forme, comodato d'uso piuttosto che, cioè, si può già fare o c'è bisogno che qualcuno scriva anche delle regole? Allora, alcune cose sono già praticabili, perché per esempio gli usi temporanei è una cosa praticabile. Un'amministrazione o va da un proprietario di un edificio e dice: senti, visto che tu questo edificio, questo capannone, quest'area non la usi già da 10 anni, 15 anni, me la dai in uso per 3 anni, io poi te la restituisco, e in quei 3 anni lui, l'amministrazione, la affida ai cittadini. Questa è una cosa che è semplicissima, che si sta già facendo. La seconda è quella di intervenire con qualche stimolo a questi grandi proprietari o ai proprietari di queste cose, perché normalmente, parlando per esempio di un capannone, ci vorrebbe una legge, Paola, un qualcosa che dica a chi ha un edificio: se non ci fai nulla per i prossimi 3 anni, non dico che te lo requisisco, ma ti faccio pagare delle tasse di più. Tu hai una cosa impositiva, diciamo, in qualche modo. Io vorrei che le cose cose in positivo non funzionano mai, ragazzi. Questo ce l'hanno dimostrato la storia, le grandi dittature. Vabbè, però si ricorda quando andavamo a scuola che studiavamo l'imposta fondiaria che faceva il Cavour sui terreni non messi a profitto dell'agricoltura? Si pagava più tasse. Con gli edifici bisogna fare la stessa cosa. Non ci fai nulla, ti faccio pagare più. Ricordo più l'anno scorso. Vorrei sottolineare che io studiavo l'anno scorso alle medie. Questa è una mia personale proposta, però non ha futuro. Proprio perché è mia. Paolella, ci dobbiamo fermare qua perché dobbiamo andare avanti, abbiamo il traffico. Sì, c'è ragione. Gli auguri di Radio 24, ci risentiamo. Accettiamo il discorso dell'imposizione, ma cerchiamo di fare un movimento culturale per cui questa non è più un'imposizione, ma è una cosa condivisa. Questo mi sembra giusto. Va bene, grazie. Ok, tante care cose, arrivederci. Arrivederci, buon sabato. Tante care cose da tanto che non lo sentivo. È bello, mi piace molto. La mia famiglia si usa tante care cose. Auguri Radio 24 per fare gli auguri. Oggi sono i 15 anni e poi anche con le vostre telefonate, cari ascoltatori, dobbiamo dire chi vincerà. Ancora dire chi vincerà, c'è ancora un po' di tempo per chiamare. Ricordiamo che tutti quelli che chiamano e che vengono anche messi in onda vincono la maglietta di Radio 24, cioè per il nostro quindicennale. E invece chi racconta la notizia più bella ancora da sentire su Radio 24, lo speciale ancora da mandare notizie in onda, notizie ipotetiche, diciamo, vince i biglietti per la mostra di Chagall. Vogliamo ricordare qualcuno che ci aveva fatto le proposte? Sì? Leggo un SMS velocissimo che dice: se mettiamo il TFR in busta, in questo paese l'unica cosa che aumenterebbe è la vendita dell'ultimo modello di iPhone. Massimiliano, questo è possibile. Adesso dobbiamo anche fare l'appuntamento con Nati per Proteggere, ma lo facciamo dopo il traffico. Vai, traffico. Voglio ancora nel mio sole scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Oh, adesso è il momento di farvi sentire altri due finalisti del concorso AXA Nati per Proteggere. 50.000 euro alla fine messe in palio per realizzare un progetto di protezione. Uno di questi 8, due l'abbiamo sentiti settimana scorsa, sentiamo gli altri due. Potete andare sul sito e votare e scegliere il vostro progetto preferito. Vai. Fa veder crescere i propri figli in una lingua straniera. Lo sanno le donne immigrate con figli nati in Italia che vanno a scuola e imparano l'italiano a dovere, tanto da diventare la lingua principale. Mentre loro, le mamme, no. Stanno spesso a casa, non frequentano luoghi pubblici e la lingua di Dante non la praticano. A insegnarglielo ci pensa il progetto Mamme a Scuola, come spiega Ornella Sanfilippo. Mamme a Scuola è un progetto di accompagnamento delle famiglie immigrate nella scuola dei figli, nei quartieri, nella città, si svolge a Milano in particolare. E il progetto si articola su due macro aree basate su due azioni fondamentali. La prima è il corso di lingua italiana per le mamme all'interno di tre grandi plessi scolastici milanesi in zone ad alta densità di presenza di famiglie immigrate. La seconda area si articola intorno a un corso di lingua materna per i ragazzi fra i 7 e i 14 anni che sono immigrati di seconda generazione, quelli che noi chiamiamo i G2. E quindi nella sua sostanza è un progetto che vuole fornire strumenti per l'integrazione, che quindi guarda in qualche modo al futuro di queste famiglie, ma noi abbiamo in mente un po' il futuro di tutti noi, insomma, di questa città. All'Aquila, l'associazione Il Cenacolo degli Angeli si occupa di dare una mano a chi è più in difficoltà. È la storia, per esempio, di Mustafa, che non aveva nemmeno un tetto sulla testa e che è stato accolto, aiutato e messo a dare una mano alla mensa di Celestino. Un modo, aiutare gli altri, per conquistarsi lui stesso l'aiuto ricevuto. È questo il modo in cui lavora l'associazione, come ci racconta Rita Bufalini. Il Cenacolo degli Angeli è un'associazione di volontariato che gestisce all'Aquila la casa famiglia per minori in prossimità di Preturo. Proprio all'Aquila è nata la nostra missione, vittime del terremoto del 6 aprile 2009. Vogliamo costruire il futuro, vogliamo costruire una mensa in una dimora storica abbandonata tra la provincia dell'Aquila e di Rieti. Questa mensa diventerà, con i sacrifici di tutti coloro che vogliono dar vita al nostro progetto, anche una fattoria sociale. Mustafa è una delle nostre storie che è andata, grazie a Dio, a lieto fine. Quindi aiutateci a costruire la mensa per i poveri nella fattoria sociale, poi al cibo, al lavoro, al da casa. Ci pensiamo noi, come abbiamo fatto per Mustafa. Per conoscere e votare queste e le altre storie, andate sul sito natiperproteggere.it. Eccoci qua, allora, l'hashtag auguri Radio 24, come va? Impazza? Impazza, impazza, ieri è stato anche nei trending topic e oggi potrebbe tornarci anche perché oggi è il vero compleanno, giusto Alessio? Sì, c'è qualcosa da leggere? No, sono auguri, se vuoi ti leggo un elenco di auguri, ma direi di no. Beh, ma con modalità, citiamo anche qualche nome, qualcuno che ci fa gli auguri, qualche ascoltatore che magari ha piacere di sentirsi anche leggere i suoi auguri. Certo, dobbiamo anche dare il premio di chi vince, giusto? O stiamo ancora aspettando delle chiamate? Ma stiamo ancora aspettando, volendo l'ultima chiamata, quella risolutrice, oppure no. Lino da Genova, per esempio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sto ascoltando anche sulla radio, mi sposto, e da diversi anni che ho sentito parlare di quella enorme massa di rifiuti di plastica che si trova nel Pacifico, Oceano, sì, Pacifico centro-settentrionale, e volevo sapere se ci sono degli studi, o meglio ancora se già si è già incominciata a fare qualcosa per eliminarla. È la notizia che vorrei vedere e sentire che sia almeno incominciato. Ah, quindi è la notizia che ci sta dando, cioè finalmente no, ci sono gli studi. No, nessuna notizia, so che esiste questa massa da tanti anni ormai. Certo, no, ma stavo cercando di capire che quindi quello che dice è che la notizia che le piacerebbe sentire è che finalmente sono stati fatti questi studi. Studi e meglio ancora se iniziata a anche delle soluzioni magari. Esatto. Però è bello così, è molto understatement, diciamo. Lei inizia a dire: no, a me piacerebbe che ci dicessero che hanno fatto degli studi. Vabbè, è buono, vabbè, apprezziamo. Comunque, questa è la notizia sulla massa di plastica che galleggia nell'oceano. Ammesso che esista veramente, sì, esiste, ci sono anche delle foto. Ti leggo un tweet, visto che volevi, sì, un tweet. Con Radio 24 abbiamo scoperto che si può fare. Tonio Monda, Radio 24. Bravo. Tonio Poi c'è Monda. Anche, ci sono anche un paio che hanno ripreso il Tante care cose, che sta diventando anche questo un hashtag. Gianluigi Chiarolini, auguri Radio 24. Tante care cose, anche Marco Torna. È un bellissimo hashtag. Perché Paolella di Cittadinanza Attiva ci ha salutato così: tante care cose. Tante care cose, si usava moltissimo quando io ero giovane negli anni 20. D'ora in poi dovremmo sempre dire questa cosa alla radio, quando salutiamo gli ospiti: tante care cose. Allora, abbiamo anche Giuseppe da Monza prima di chiudere, ma ce la facciamo a sentirlo? Sì, veloce, vai Giuseppe. Così vince la maglietta anche lei, prego. Buongiorno, io vorrei che un giorno voi interrompete le trasmissioni dicendo: abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio. Questo è l'italiano. Certo, quindi la notizia è stata raggiunta. Cioè, beh, questa io forse sono rimasto fermo perché questa forse vince tutto. Ci vuole il nuovo millennio per arrivare a questa. Va bene, Giuseppe. L'ultima visione che chiude la riunione dicendo: abbiamo raggiunto. Non capiamo più nulla, Giuseppe. Grazie, grazie da Monza. Mille. Però a questo la punto è buona. Dobbiamo dare il tempo al cervellone di elaborare la notizia più bella per che dare, vince che... i biglietti per la mostra di Chagall. Lo dobbiamo dire. Allora, secondo me, vabbè, questa del pareggio di bilancio non era male. Però... raggiunto pareggio di bilancio, me lo vedo bello su scritto in grosso. No, io non la vedo. Bello. È talmente lontana che proprio non la vedo. Vedo di più l'ascoltatore. Adesso Giorgio De Luca ci dirà come si chiama. Matteo da Grosseto, vai con l'applauso, ce l'abbiamo. Che dice: la notizia che vorrebbe è la colonizzazione della Luna. Cioè, va bene, vabbè. Accetto, anche se diciamo è assolutamente una dichiarazione di resa quella tua, Alessio, perché, voglio dire, perché colonizzeremo prima la Luna di avere il pareggio in bilancio, e quindi forse sì, non una grandissima notizia. Però concordo, temo di complimenti sì a Matteo da Grosseto. Ci sentiamo domani alle 8.30. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. Grazie a Andrea Piana, Giorgio De Luca e Pietro Lacorte oggi in regia. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.